Parto col dare subito le indicazioni, tutto il programma lo trovate sulla pagina Facebook 25 aprile Montesole percorsi antifascisti, che è anche un account Instagram, così se vi rimangono dei dubbi lì potete trovare tutto. Se stiamo parlando proprio della giornata del 25 aprile, beh, come sempre la proposta, diciamo, è giornaliera, nel senso che partiamo alla mattina con gli interventi degli ospiti dal palco di San Martino insieme a Walter Cardi, presidente del comitato Onoranze, e a Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto. Ci saranno Michele De Palma, che è il segretario generale della FIOM, ma soprattutto, scusatemi questa preferenza, ma quest'anno il 25 aprile per noi è dedicato a un importante anniversario, che è l'80° del referendum costituzionale e quindi anche del voto alle donne. Abbiamo con noi Concita De Gregorio, giornalista e scrittrice, e la incredibile Luciana Castellina, che ha deciso di farci questo regalo, quindi attivista e attualmente presidente onoraria dell'ARCI. Se stiamo in tema di palchi, ci spostiamo poi per il pomeriggio al palco del Poggiolo, dove avremo i concerti di Nobraino e di Luca Bassanini e della piccola orchestra popolare, intervallati dagli interventi di organizzazioni della società civile come Mediterranea Saving Humans, Amnesty International, l'agenzia Italia Meteo. E anche qui faccio una notazione di una piccola preferenza personale, perché abbiamo invitato Anna e Giuseppe Paciolla, che sono i genitori di Mario, cooperante italiano ucciso in Colombia qualche anno fa. Montesole si è sempre schierato dalla parte della verità e della giustizia, e la morte di Mario è ancora un capitolo scuro, quindi abbiamo pensato che fosse bello e giusto averli con noi per dare voce anche a questa battaglia. Delle altre attività che potete trovare in collina, sicuramente segnalo l'inaugurazione di una scultura prodotta da un'artista tedesca che si chiama Nezilla, che ha deciso di fare una sua elaborazione per condannare la guerra aerea e le bombe, quindi sarà presente a Montesole una scultura che lei ha voluto intitolare Paper Bomb, e la inaugureremo proprio quel giorno lì. E poi segnalo sicuramente il percorso che faremo, l'azione teatrale itinerante che faremo con Archivio Z dal titolo Terra Contaminata. Quest'anno abbiamo deciso di concentrarci su un tema sicuramente molto importante, che è quello del genocidio. Nella yurta accanto al Poggiolo, nella yurta Irma Bandiera, proprio in relazione al tema delle donne resistenti, avremo una mostra che si chiama Wire, Women in Resistance, accanto a un'altra mostra dove la resistenza, la non violenza e l'educazione la fanno da padrone, perché è una mostra che si intitola Una vita scoperta intensamente ed è dedicata a Danilo Dolci. Ma sappiamo che il 25 aprile a Montesole e nella zona, diciamo, non dura solo un giorno, perché è inserito nella rassegna Percorsi Antifascisti. Qualche velocissimo altro appuntamento fuori dal 25 aprile? Questa sera avremo la presentazione della guida Non Turismo insieme a Vooming 2, una guida prodotta da Sineglossa al Poggiolo alle 18:30. Domenica 26 aprile ci sarà la possibilità di continuare a visitare le mostre, di fare la visita esperienziale lungo il sentiero del memoriale e di avere una seconda replica di Terra Contaminata con un percorso un po' più breve, nonché uno spettacolo teatrale alle 16 al Teatro di Marzabotto prodotto dagli alunni dell'Istituto Comprensivo di Castenaso, Imelde e la Bambina del Treno. Chiudo anche qui con una segnalazione di parte, ma credo che sia molto bella. Il 1° di maggio avremo un laboratorio dedicato proprio al pensiero di Danilo Dolci, un laboratorio itinerante in compagnia di Tiziana Morgante, che è un'educatrice e una collaboratrice di Danilo Dolci, con letture di Archivio Z. Quindi sì, ce n'è decisamente per ogni desiderio, secondo me.